Ci sono argomenti affrontati dalla società che acquisiscono importanza secondo l'epoca nella quale si vive. Appena meno di 50 anni fa era impensabile indire congressi in merito all'inquinamento. Come era ridicolo affrontare il tema del ruolo della donna nella società e nella famiglia, mentre oggi questi sono i temi più importanti. La civiltà, con il suo progresso tecnologico, sta distruggendo lentamente l'armonia dell'atmosfera terrestre, mentre da qualche decennio la donna vuole essere più protagonista in tutti i settori della vita, compreso quello militare, storicamente di competenza esclusiva dell'uomo. Anche se l'argomento dell'inquinamento ha una sua grande importanza, sembra che le discussioni in merito al ruolo della donna nella società e soprattutto nella famiglia siano le più sentite e spesso anche le più accese. Conosco delle donne meno, e qui non ha molta importanza se abbiano una certa fede oppure no, meno le quali al solo accenno che i lavori domestici siano compiti femminili si incendiano come paglia, reazione che solo una generazione fa sarebbe stata ritenuta insolente. Ma poiché a nulla serve alterarsi o evitare un argomento relativo a questo vivere, è più che opportuno considerare il ruolo della donna in relazione ai lavori domestici e ancor più trarre dalla parola di Dio le riflessioni in questione, quella parola che deve e dovrebbe essere sempre l'autorità e la guida per ogni sana e giusta riflessione. L'Apostolo Paolo, dando istruzioni in merito al comportamento che dovevano tenere i primi cristiani nella lettera a Tito, ordina le seguenti cose. Ma tu parla di cose che siano conformi alla sana dottrina, gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, padroni di sé, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Parimenti le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante, non siano calunniatrici, non schiave di molto vino, ma maestre nel bene per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli, a essere assennate, caste, dedite ai lavori di casa, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Tito 2.15. Tito era stato incaricato da Paolo a mettere ordine nelle chiese esistenti nell'isola di Creta perché i credenti avessero un cammino conforme alla sana dottrina di Dio. Da notare perciò che il discorso dell'Apostolo non riguardava delle opinioni culturali o delle direttive opinabili, ma niente meno si trattava degli ordini di Dio. Noi potremmo aspettarci da parte di Paolo delle direttive in merito a chissà che cosa, ma l'Apostolo in questo brano si preoccupa principalmente del comportamento delle persone anziane, sia uomini sia donne. Agli uomini anziani ordina che abbiano un comportamento conforme a chi ha posto fede in Cristo, e cioè di condursi con fede, con amore e autocontrollo, mentre alle donne anziane Paolo ordina di essere di esempio alle più giovani nella sottomissione ai loro mariti, nell'occuparsi dei figli, nel tenere un comportamento casto e nell'essere dedite ai lavori di casa. Dunque, in questo elenco di doveri rivolto alle donne compare anche l'attitudine ai lavori domestici. La ragione per la quale Paolo ha dato queste disposizioni è affinché la parola di Dio non fosse bestemmiata, cioè non fosse disprezzata o svalutata. Ora, se la parola di Dio è disprezzata quando gli uomini anziani non hanno né fede né amore o autocontrollo e le donne anziane non sono di esempio alle giovani, è altresì vero che una donna non dedita ai lavori domestici disonora Dio. Molto probabilmente qualche donna avrà una reazione ribelle di fronte all'affermazione di Paolo. Ma vedremo che sono gli esseri umani ad aver mal compreso l'ordine di Dio teso alla piena realizzazione e soddisfazione della donna. E quando vi sono dei presupposti completamente sbagliati, di conseguenza, per risolvere i problemi reali, sono proposte delle soluzioni difettose. Una cosa è certa, la parola di Dio non ordina alla donna di stare sempre dietro i fornelli, e che tutto il giorno deve cucire, lavare e stirare. È sufficiente considerare il libro dei Proverbi per vedere che la donna virtuosa è colei che posa gli occhi sopra un campo e l'acquista, che fa delle tuniche e le vende. Capitolo 31. Questo ci fa capire che la donna dell'antico patto, oltre a sorvegliare l'andamento della casa, si occupa anche di affari. Non è a caso quindi che a Filippi, per la predicazione dell'Apostolo Paolo, si convertì una donna che era negoziante di porpora. Ma non è solo di affari che la donna si può occupare oltre i lavori domestici. La Divina Parola ci ricorda che una donna di nome Febe era diaconessa nella prima chiesa di Cencrea, Romani 16, 1, e che svolgeva un servizio attivo per il buon andamento della chiesa. Nello stesso capitolo Paolo ricorda pure Trifena. Trifuna e Perside, donne che si affaticavano nel Signore. Scrivendo ai Filippesi, l'Apostolo dei Gentili ricorda Evodia e Sintiche che avevano lottato con lui per l'Evangelo assieme con Clemente e gli altri collaboratori. 4, 3. Dunque, il cristianesimo ha reso missionari anche la donna. I ruoli saranno diversi, ma la responsabilità è la medesima. Non è quindi a caso che delle mogli accompagnavano i loro mariti nei viaggi missionari, e tra di esse ricordiamo la moglie di Pietro. 1 Corinzi 9, 5. Il primo compito della donna sposata è stare accanto al proprio marito se le è possibile, e se lui ha un'attività spirituale itinerante, seguendolo può essergli molto utile, evitandogli di dipendere da altre donne. Allora la donna è liberata dalla schiavitù dei fornelli, ha finalmente raggiunto la parità con l'uomo? Il buon senso risponde subito di no, perché qualcuno dovrà pur far da mangiare, cucire, lavare e così via. Se questo spetta all'uomo e se essere dediti ai lavori domestici è una schiavitù, vuol dire che il cristianesimo ha liberato da questa schiavitù la donna per addossarla all'uomo. La cosa più saggia, quindi, è cercare di capire che cosa volesse intendere Paolo dicendo che la donna deve essere dedita ai lavori domestici, dal momento che lo ha scritto per la donna. Con le premesse considerate non ci si può sbagliare. La scrittura vuole intendere che la donna deve avere attitudine per le cose di casa, cioè deve trovare la propria realizzazione pure nello svolgere le faccende domestiche, anche se queste possono non essere il suo lavoro quotidiano. E se ho compreso bene, è proprio a questo che si ribella la donna del XXI secolo. Non trovando il proprio valore all'interno delle mura domestiche, cerca fuori casa, nel mondo del lavoro, il modo di non sentirsi inferiore all'uomo. Ma così rovina se stessa e danneggia un minuto uomo. Sono inutili quei patti con l'uomo per lavare i piatti, accudire i bambini, uscire di casa. Sono palliativi destinati a durare poco. Ma la colpa non è solo della donna, perché l'uomo ha una grande responsabilità. Non avendo apprezzato il lavoro femminile, non palesemente retribuito, anzi sottovalutandolo e disprezzandolo, l'ha messa in condizione, per togliersi questi complessi di inferiorità, di voler svolgere attività prettamente maschili. Ed ecco che essa abbandona le faccende di casa, non si cura dei figli e li porta negli asili nido, il marito viene trascurato e le persone anziane finiscono nei ricoveri. Se questi errori potessero rimanere fuori dalla chiesa dell'Iddio vivente, forse si potrebbe ignorare tale aspetto sociale. Ma purtroppo, come spesso accade, la chiesa viene influenzata dal peccato che la circonda. Si assiste così al fenomeno di donne cristiane zelanti in molte cose, ma con pochissima attitudine per le cose di casa. Non ci si affatica nelle cose del Signore per evitare i propri compiti. Anzi, avendo fatto tutto il dovere nostro per recuperare il tempo perduto e perché l'amore di Cristo ci costringe, ci si occupa anche delle cose riguardanti il regno di Dio. Sono pienamente convinto che la donna del XXI secolo non si distinguerà solo se testimonia a tempo e fuori tempo del suo Salvatore, ma soprattutto perché accetterà il ruolo attribuitole dal suo Dio, avendo fede nella parola che le indica la via per trovare la vera realizzazione occupandosi del marito, dei figuno, i tikei e dei lavori domestici. Solo allora non intonerà un canto funebre in merito al ruolo femminile, quando converserà con altre donne, ma testimonierà con il proprio esempio più che con un discorso biblico, della gioia di essere una donna cristiana, valorizzata da Dio, realizzata in Dio mediante l'obbedienza alla parola, avrà attitudine alle attività domestiche. Se non fosse così, Paolo non avrebbe comandato che le vedove giovani si maritino, abbiano figlioli, governino la casa. Questo come conferma il contesto, perché non siano tentati di vivere in modo sconveniente. 1 Timoteo 5:11-14. L'uomo cristiano non si sentirà umiliato se aiuta la moglie nelle faccende domestiche, nella cura dei figli e dove riterrà opportuno che la donna abbia bisogno. Ma è altresì doveroso sottolineare che se è vero che l'uomo deve aiutare la donna, questa non deve pensare di potersene arrogare il diritto, altrimenti ogni volta che questo aiuto viene a mancare essa si sentirà trascurata e il suo spirito verso l'uomo non potrà certamente essere sereno. Un errore da parte dell'uomo non le dà il diritto di sbagliare, tanto più che il comandamento di essere data ai lavori domestici è rivolto a lei. Proprio perché alcuni ritengono il cristianesimo una semplice filosofia, prendiamo in esame la testimonianza di una donna in merito ai lavori domestici. Sono una moglie e madre di parecchi figli, diventata cristiana da 10 anni. Premetto che, essendo cresciuta in una famiglia dove la moglie esercitava il ruolo di capofamiglia accanto a un uomo, suo malgrado, e probabilmente anche per sua colpa, sottomesso, e, avendo sofferto l'assenza di una madre secondo il canone di quei tempi, ho sempre avuto in cuore il desiderio di occuparmi di una famiglia mia, e sognando il mio principe azzurro mi dilettavo nel pensiero delle sue camicie, da stirare, e tutto il resto. Quando da adulta mi sono trovata a lavorare fuori casa e a codire una famiglia, pur essendo molto gratificata dall'attività svolta, non riuscivo a trovare un equilibrio. I figli erano sempre affidati a altri, la casa era sempre affidata a altre donne che la curassero, oppure, quando non mi potevo permettere un ausilio esterno, era sempre caotica, invasa da montagne di roba da stirare, giochi sparsi ovunque e farvi ritorno non era di certo entrare in un luogo accogliente. Ne soffrivamo tutti. Per questo, quando ne ho avuto la possibilità e anche a dispetto di mio marito, il quale avrebbe voluto che, oltre a occuparmi dell'andamento della casa e della famiglia, fossi anche fonte di ulteriore reddito, ho optato per la non facile scelta di fare la casalinga. La scelta è stata difficile, perché mi piaceva avere successo sul lavoro, essere ammirata. Inoltre la mia scelta si è anche rivelata difficile nel tempo, perché essendo disprezzato il mio lavoro casalingo, sono diventata quella che non ha motivo di essere stanca o stressata, e quelli che erano i nostri soldi quando contribuivo economicamente sono diventati i soldi di mio marito. Colpi duri da digerire e che hanno scatenato in me reazioni di diversi tipi, però nel mio intimo albergava una convinzione di fondo, poi confermatami dalla parola di Dio, che assimilavo e che mi era rivelata a poco, nel tempo. Gesù mi convinse che la Bibbia potrebbe essere altrimenti definita vita. Istruzioni per l'uso. Mi confermò che noi non sappiamo usare la vita secondo la sua vera destinazione. L'uso che ne facciamo invece proviene da una cultura sbagliata, perché è nata e dettata dalla corruzione della nostra natura di peccato. La donna è stata creata per essere l'aiuto dell'uomo. Anche quando il suo partner non la gratifica, la realtà non cambia, lo scopo divino resta immutato, e la sua realizzazione deve essere ricercata e trovata prima di tutto nell'adempiere al ruolo al quale Dio l'ha destinata. La donna trova nell'uomo la propria vera realizzazione solo per fede, in sottomissione al suo padrone Gesù Cristo. Questo significa in pratica che la donna è attrezzata per svolgere le funzioni di moglie e madre, in associazione a tutto l'onere che tali compiti comportano, senza esserne una vittima, ed è anche adatta a occupare un posto nella società come nell'opera di Dio. Certo, non le resta meno, e qui forse tocco una nota dolente, meno molto tempo per se stessa, o da perdere, in quelle tante piccole cose, molte delle quali assolutamente lecite, nelle quali noi donne tanto ci piace perderci. Ma forse è un bene, perché così essendo, ogni singolo momento libero diventa un dono prezioso e non un qualcosa di scontato. Che le donne cristiane possano onorare Dio in tutto, ma soprattutto anche nei lavori domestici. Marzo 2007. Ellero